palpita un sorriso, son felice, tu lo sai perché, sono innamorato, sono spensierato, perché penso solo a te. Il primo pensiero d'amore sei tu, sei tu. Il primo sospiro del cuore sei tu, sei tu. La sola che io voglio baciare sei tu, sei tu. Colei che non posso scordare mai più, mai più. Negli occhi tuoi belli c'è un velo di dolcezza, di bontà. Se cade una stella dal cielo, quella stella ti dirà: il primo pensiero d'amore sei tu, sei tu. Colei che non posso scordare mai più, mai più. Colei che non posso scordare mai più.